Radio 24 Reportage. Luisi, un italiano al Metropolitan, di Mario Platero. Fabio Luisi ha fatto il suo debutto davanti a una platea che viene descritta, io non c'ero a questa prima, ma viene descritta dal New York Times come una platea impaziente, tesa. Sapeva che ci sarebbe stata una sostituzione importante quella sera, ed era la sera del 13 ottobre, appunto, al Metropolitan Opera House. Non era la prima volta che Luisi saliva sul podio del teatro dell'opera newyorkese, dove aveva debuttato nel 2005 dirigendo il Don Carlos di Giuseppe Verdi, però con questo aggravarsi della condizione di salute di Levine, che ha dei problemi muscolari e dei problemi motori, sembra che ormai sia definito un certo processo, un certo percorso, e cioè che Fabio Luisi a un certo punto prenderà il suo posto come direttore artistico. La posta in gioco ovviamente è altissima e non c'è da stupirsi se il pubblico fosse teso quella sera. Maestro, era teso anche lei? Pensa che ci sarà una successione presto? Il Metropolitan ha un music director, questo music director è James Levine, e quindi lui è l'incaricato di occuparsi delle diciamo delle prospettive a lungo termine di questo teatro. Il mio apporto è un apporto adesso per alcuni anni, per la durata del mio contratto, ed è un apporto di mantenere soprattutto le maestranze musicali, l'ensemble, l'orchestra, il coro, al livello al quale sono arrivate negli ultimi anni, che è un livello altissimo. Stiamo parlando dell'istituzione musicale più importante e migliore degli Stati Uniti, è una delle più importanti del mondo. Il mio compito è di mantenere questo livello e di svilupparlo, dando nuove idee, nuovi impulsi, sia per quello che può riguardare il repertorio che per quello che può riguardare il modo di proporre questo repertorio, che forse col mio apporto potrà essere un poco modernizzato. Fabio Luisi ha 52 anni, dopo gli studi a Genova, dove è nato, dove è cresciuto, ha lavorato principalmente in Germania, in Austria, in Svizzera, si è diplomato in direzione d'orchestra a Graz, ha avuto il suo primo ruolo di direttore d'orchestra nel 1990 con la Graz Symphony, dal 2005 è il primo direttore della Vienna Symphony, con cui però non ha rinnovato il contratto oltre la stagione 2012-2013. Luisi decide di lasciare l'Italia quando è ancora molto giovane, appena 20-21 anni. Prima si trasferisce in Francia e poi a Graz, appunto, dove va a studiare con quello che diventerà il suo più importante maestro, il direttore d'orchestra Milan Horvat. A quei tempi conoscevo bene la cultura latina, diciamo, avevo studiato in Francia, ma non conoscevo affatto la cultura di lingua germanica. E questo mi mancava, soprattutto per la musica è talmente importante, un grande campo della musica è avvenuto in area germanica, e questo volevo impadronirmene, e per questo mi sono trasferito in Austria. Il mio maestro era Milan Horvat, è un direttore d'orchestra che dirige ancora oggi, piuttosto anziano adesso, ma continua a dirigere, e dal quale io ho imparato tutto, è stato un maestro splendido. E dopo essermi trasferita in Austria, a Graz, non mi sono più recato in Italia, soltanto come turista oppure per visitare la mia famiglia. Una volta in Austria, Luisi segue la carriera standard di direttore d'orchestra. Prima entra in un teatro come pianista e poi inizia a condurre i primi spettacoli. Una carriera che è partita dalla gavetta. Mentre parlavamo, mi ricordava Luisi di quanto importante sia per i giovani musicisti studiare il piano, soprattutto per coloro che vogliono fare direttori d'orchestra, perché questo ti può avviare appunto a una carriera partendo sì dal basso, ma una carriera che ti dà straordinaria esperienza. Per quello che riguarda la mia persona, io ho fatto un tipo di carriera che era la carriera tipica dei direttori d'orchestra, soprattutto di lingua germanica, 30, 40, 50 anni fa. Quindi entrare in un teatro come quello che in Italia si chiama maestro sostituto, in Germania si chiama Korrepetitor, è il pianista che accompagna le prove di scena, le prove musicali, e poco per volta iniziare la scalata di questa di altri compiti di maggiore responsabilità, finché a un certo punto si presenta la chance di poter dirigere una recita, e da questa recita se ne ricavano altre, finché qualcuno dice: ma insomma, questo non è mica male, invitiamolo anche in un altro teatro. È quello che è capitato a me. Io ho avuto molta fortuna, devo dire, perché subito dopo lo studio sono potuto entrare in un teatro e poco tempo dopo ho già potuto cominciare a dirigere. Ci sono sicuramente molti talenti in Italia come altrove che non riescono ad avere una prima chance, e quindi da questa prima chance mancata non se ne possono sviluppare altre. Questo è difficile naturalmente in ogni campo e in ogni nazione, non penso che sia una caratteristica solo dell'Italia. Anche sgambetti ci sono dappertutto, io stesso ne ho avuto esperienza di sgambetti fatti a me. Purtroppo è un'esperienza che forse bisogna avere anche per diventare più forti o per stare in piedi nonostante, rimanere in piedi nonostante lo sgambetto, non lo so. Può essere difficile e può essere facile, non importa in quale paese. Personalmente io non ho avuto sponsor, non ho avuto giornalisti che mi hanno appoggiato, non sono mai stato assistente di un direttore d'orchestra famoso, e ho semplicemente lavorato e ho avuto la fortuna di poter avere delle chance che ho utilizzato bene. Fabio Luisi si è trasferito stabilmente a New York con la famiglia da qualche mese, proprio dopo aver ricevuto l'incarico di Principal Conductor al Metropolitan Opera House e dopo che ci si è resi conto che le condizioni di salute di James Levine non sarebbero migliorate presto. Beh, io sono venuto in America nel 2000 per la prima volta, ho lavorato col New York Philharmonic e poi ho lavorato a Chicago alla Lyric Opera lo stesso anno. Dell'America avevo un'idea di società piuttosto superficiale, cosa che invece non si è affatto, ho visto che non era vero, ecco. È una società molto diversa, naturalmente, ed è una società dove è necessario prendersi le proprie responsabilità. Occorre sentire la responsabilità di andare avanti, avere molta energia, avere anche molta voglia di esprimere le proprie opinioni e di considerare le proprie opinioni come valide. È importante credere in quello che si fa. E soprattutto essere molto aperti a tutto, ecco. Se pensiamo all'ideologia o alla meccanica del posto fisso, allora l'America è il posto sbagliato. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.